Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Vi do subito il numero verde che è 800 24 00 24, ormai lo conoscete, però ve lo do subito perché oggi mi piacerebbe parlare con voi, oltre che di cronaca, di quello che sta succedendo, di quello che è successo in mattinata con un'altra medaglia di legno per lo sci azzurro, e di derby naturalmente, perché è vigilia del derby di Milano domani, particolarmente importante domani sera. Beh, vorrei parlare con voi di ruoli e di cambi di ruolo in questa puntata, se possibile, se ne avete voglia. L'assist, anzi il controassist per la verità, ci è arrivato una settimana fa da Sei Nazioni, da Nick Mallet, con quella inopinata maglietta numero 9 messa sulle spalle di Mauro Bergamasco, e come è finita lo sapete tutti. Un altro assist arriverà poi alle 17.25 da Andrea Zorzi e dal suo segno di Zorro, perché Andrea avrà delle domande da farvi e delle storie da raccontarvi. Quindi prenotatevi se volete, siamo qui, 800 24 00 24. Io direi di partire subito dal rugby e dal Sei Nazioni, dalla partita che è in corso Francia-Scozia, da quella maglia numero 9 di Bergamasco, dalla partita che domani ci attende contro l'Irlanda al Flaminio. Peroni illumina la tua voglia di rugby. Vi presenta Palla Ovale. Giacomo Bagnasco era a Twickenham sabato scorso, sarà al Flaminio domani pomeriggio per Italia-Irlanda, ore 15.30. Giacomo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carlo, sarò domani al Flaminio, oggi invece sono a casa, non sei a Parigi. Sto guardando la partita. Non sei a Parigi, dove questa Scozia francamente ci può mettere anche un po' di paura, se è la nostra classica e solita avversaria anticucchiaione. Sì, la Scozia ha dimostrato anche contro il Galles, pur perdendo abbastanza nettamente in casa, di essere una squadra che comunque ha fatto passi avanti. Lo si era visto anche nel corso dei test match di novembre, era andata vicino a una vittoria che si poteva veramente, in questo caso senza esagerare, definire clamorosa contro i campioni del mondo del Sudafrica. Sta impegnando anche la Francia in una partita un po' strana, il risultato in questo momento è di 16-6 per i francesi, che hanno concluso il primo tempo sul 6-3. Poi in avvio di ripresa l'unica meta finora dell'incontro segnata da Oudraogo e secondo me anche viziata da una sorta di velo, cioè lo stesso Oudraogo in una fase precedente dell'azione si è trovato davanti al portatore francese della palla, cioè Medara, in questo modo un po' impedito il movimento difensivo degli scozzesi. Detto questo, comunque una Francia che ha un predominio territoriale ma sbaglia molto, soprattutto tanti passaggi in avanti, forse a dimostrare una condizione psicologica non perfetta. Sì, io invece sono curioso di conoscere la situazione psicologica dell'Italia, non solo psicologica dell'Italia, e non c'è nessuno in questo momento che ce la possa raccontare e spiegare meglio del team manager azzurro, l'uomo che sta accanto a Nick Mallet, Carlo Checchinato. Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Come stiamo? Bene. Stiamo bene. Come stavamo bene anche prima dell'Inghilterra, per cui il fatto di come si stia prima della partita è importante, ma non sempre dà indicazioni poi di come andrà la partita. Senti, la squadra comunque ha manifestato per tutta la settimana un atteggiamento molto positivo negli allenamenti e in tutto quello che è stato fatto nella preparazione di questa gara, per cui arriviamo a questa partita in condizioni pressoché ideali dal punto di vista della preparazione e anche dell'attitudine mentale, perché i ragazzi sono veramente concentrati e preparati, e quindi domani speriamo che tutta questa preparazione si veda poi sul campo. Sbaglio se penso che il primo tempo di Twickenham ci ha fatti più brutti di quanto in realtà non siamo? Ma sicuramente, perché per carità se ne è parlato tanto in settimana, e quindi adesso siamo più proiettati sulla partita di domani che su quella della settimana scorsa, però indubbiamente i nostri errori li abbiamo pagati molto, molto caramente, e come hai detto tu, diciamo, ci hanno mostrati per un lato ancora peggiore rispetto a quello che in realtà possiamo esprimere, insomma, perché l'Italia può giocare certamente molto molto meglio di quanto non ha fatto vedere sabato scorso. Se poi questo è sufficiente per vincere, questo è un altro discorso, ma sicuramente la squadra può esprimersi a livelli molto più alti. Giacomo, una domanda per Carlo Checchinato. A Carlo, che è stato un grande avanti della nazionale italiana in seconda e in terza linea, che ha detenuto a lungo il record del numero di mete segnate nei test match internazionali da un giocatore della Mischia, volevo chiedere qualcosa sul pacchetto azzurro, un pacchetto che è stato detto tante volte in sede di previsione, già in autunno, avrebbe potuto perdere qualcosa in seguito alle nuove regole, soprattutto a quella regola che consente di interrompere le mall, cioè i cosiddetti carrettini, gli avanzamenti in piedi con la palla in mano. Ecco Carlo, quanto la Mischia italiana può aver pagato la nuova situazione e a che punto siamo nell'adeguamento a queste nuove regole? Mi è fatto piacere che abbia ricordato qualche numero che mi riguardi. Indubbiamente non avrei mai potuto fare 21 mete al mondo se non ci fosse stata la rolling mall e le azioni di spinta che hanno sempre un po' caratterizzato il gioco di Mischia degli avanti. L'anno scorso abbiamo fatto 3 mete con Carlo Giovanni e una meta di Mischia contro la Scozia per una meta di penalità perché sono crollati Mischia chiusa, per cui è indiscutibile che nel gioco dell'Italia la Mischia chiusa e tutto il gioco degli avanti è sempre stata uno dei nostri punti di forza. Adesso questo cambiamento delle regole, che non riguarda solo noi, riguarda tutte le squadre del mondo, intendiamoci, per cui non è una scusante, ci sta portando di necessità a trovare delle vie diverse di gioco che talvolta ancora non ci appartengono del tutto. Quindi noi stiamo lavorando molto e già da novembre abbiamo cercato, abbiamo fatto una buona prestazione contro l'Australia, 3 passi indietro contro l'Argentina, un passo avanti contro le Pacific Islands su certi aspetti e un po' meno su certi altri, quindi siamo un po' in rodaggio e credo che abbiamo più difficoltà di altre nazioni ad adeguarci a queste nuove regole, ma non per questo già da domani non potremo vedere un'Italia più brillante e più diciamo capace di imporre il proprio gioco. Carlo, come ha vissuto per chiudere questa settimana Nick Mallett? Credo sia stata la più difficile della sua esperienza da CT della nazionale italiana. Ma non solo per Mallett, per tutti noi la settimana è stata pesante, perché quando lavori e pensi anche di lavorare bene e i risultati non arrivano, sicuramente inizi a mettere in dubbio tante cose, prima di tutto te stesso, perché prima di tutto bisogna mettere in discussione se stessi in ogni situazione, sia lo staff sia e poi i giocatori. Mallett è una persona molto, molto corretta e molto diretta e quindi le sue responsabilità se le prese come se le sono presi i giocatori, perché poi alla fine sono gli attori principali quelli che vanno in campo. Di conseguenza la settimana è stata difficile, soprattutto nei primi 2-3 giorni, perché digerire la brutta prestazione di sabato era abbastanza complicato, ma non per questo si è persa la fiducia nel proprio lavoro e si è persa la passione e la voglia di fare con questa Italia dei risultati, perché anche la scelta di Mauro con tutte le sue A9, con tutte le sue implicazioni tecniche, tattiche e quindi tutti i dubbi che potevano essere la vigilia, non dimentichiamo che, e questo va dato onore a Mallett, è stata una scelta verso l'Italia, perché era molto più facile per un allenatore rischiare meno e fare una scelta molto conservativa. Certo. Invece, pur facendo un errore, come ha detto lui apertamente, è stata una scelta anche coraggiosa e nel senso di quello che dobbiamo fare noi, perché dobbiamo prendere assolutamente dei rischi se vogliamo essere competitivi a questo livello. Grazie Carlo, in bocca al lupo per domani, a tutti. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie a Carlo Checchinato. Dunque, ci ricordo il contatto 800 24 00 24, numero verde. Adesso stiamo parlando di rugby, poi parleremo certamente anche d'altro. Giacomo, per tornare a questioni di ruolo e di cambio di ruolo, ne ha parlato senza peli sulla lingua Nick Mallett in settimana, subito dopo la partita ne ha parlato ora senza peli sulla lingua, giustamente Checchinato. Domani stop agli esperimenti. E si va con una mediana nuova di zecca, è totalmente inedita, Griffin McLean, il vecchio e il giovane, ma quantomeno non strampalata come quella di Twickenham. Sì, indubbiamente, per dire la verità Griffin e McLean sono anche compagni di squadra nel Cammi Calvisano, però possiamo parlare comunque di mediana inedita o quasi, perché McLean, ricordiamolo, nel Calvisano gioca estremo. Però ad apertura ha giocato spesso, ha detto che è il suo ruolo preferito, quindi in questo caso non si può parlare di esperimento. E d'altronde, se sul mediano di mischia la coperta era cortissima a causa di 3 infortuni che hanno privato Mallet delle opzioni di Piccone, di Travagli e così via, e di Canavosio, naturalmente è corta la coperta anche per il mediano d'apertura dopo l'infortunio ha marcato. Quindi torna Paul Griffin, che ha quasi 34 anni, non giocava da un anno e mezzo in nazionale. A me, lo dico francamente, spiace un po' sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista personale e anche dal punto di vista tecnico, penso, per Toniolatti, questo giovane che ancora una volta praticamente... Giovane però ha 25 anni, eh? Esatto, oltretutto non è giovanissimo, ma... e si vede passare ancora una volta il treno davanti. Qualcuno davanti. Fra parentesi, Toniolatti non aveva giocato male nel secondo tempo di Twickenham, in una partita che però a quel punto forse non era il test più, certo, più efficace. In ogni caso, diciamo che questa è una mediana sicuramente razionale. Diciamo anche che ci sono altri cambi che vanno verso questo tentativo di razionalizzare un po' tutto lo schieramento. Il cambio in questo senso è quello di Mirko Bergamasco, che torna a giocare centro con Gonzalo, sì, Canale, esce Garcia, e all'ala al posto di Bergamasco gioca Pratichetti dal primo minuto. Almeno abbiamo giocatori in ruoli più appropriati e anche con sufficiente, mi riferisco alla coppia dei centri, sufficiente anzianità di servizio in coppia, voglio dire. Giacomo, mentre questa Scozia continua a giocare una partita convincente, anche se la Francia vince 19-6, in questo momento siamo al 64esimo, ti chiedo ancora questo, a proposito di ruoli e cambi di ruolo, per inventare Pirlo davanti alla difesa nel calcio, Zambrotta difensore laterale, Ancelotti e Lippi ci hanno messo mesi se non anni, il numero 9 di Bergamasco a Twickenham ha reso, come dicevo prima, secondo me l'Italia più brutta di quanto non sia. Sono esperimenti che tolgono sicurezza anche a tutta la squadra, naturalmente, anche e soprattutto a chi di certezze ne ha già poche come l'Italia. Sì, guarda, oltretutto c'è da dire questo. Io direi due cose. Primo, stiamo parlando tutti naturalmente con il senno di poi. Questo bisogna dirlo, perché effettivamente se c'erano dubbi prima di questa partita erano stati abbastanza occultati da parte di tutti. C'era anche la speranza che un giocatore come Mauro Bergamasco, che era riuscito a disimpegnarsi bene ad esempio nel ruolo di trequarti centro, sia pure in situazioni di emergenza, inventasse qualcosa. Secondo me è successa anche un'altra cosa curiosa, cioè si è giocato, Bergamasco ha giocato, non so se per consegne tattiche o per scelta o perché in quel momento si è sentito di fare così, ha giocato come se fosse un vero e proprio mediano di mischia, cioè alternando passaggi, calci, sì, facendo anche dei passaggi lunghi che erano quelli che hanno avuto l'esito peggiore. Quindi direi che questo è stato anche il problema. L'anno scorso, quando Masi è stato in un certo senso sperimentato a mediano d'apertura, ed era un esperimento forse un po' meno audace, primo perché Masi è comunque un trequarti, secondo perché il mediano di mischia e il pilone sono i due ruoli che hanno una maggiore specificità, sì, certo, tecnica e di gesti rispetto a tutti gli altri, quindi anche rispetto al mediano d'apertura. Dicevo, quando Masi è stato provato come mediano d'apertura, nella prima partita aveva la consegna praticamente di non calciare mai, certo, e di fare passaggi brevi. Quindi è stato un mediano d'apertura adattato, che ha giocato con un gioco adattato. Invece, oltretutto, Mauro Bergamasco ha fatto questa partita provando gesti tecnici e comportamenti tattici come se fosse, certo, un numero 9 di ruolo e anche esperto. Qui praticamente l'impalcatura è caduta completamente, certo. Poi per il resto, come dicevi tu, per Pirlo, per Zambrotta, per tutti questi cambiamenti di ruolo che esistono anche negli altri sport, magari gli allenatori ci hanno pensato un'intera stagione, per un intero precampionato, cambio che è avvenuto oltretutto all'interno del club e non nella nazionale, certo, perché Bergamasco nel suo club ha giocato terza linea fino certo, a ieri. Ma no, non vai comunque ad inventarti Pirlo, ad esempio, davanti alla difesa nella finale di Champions League così all'improvviso. Sono cose un po' diverse. Nello sport di oggi, torno a ripetere, è difficile inventare qualcosa al massimo livello, se non Carlo, con un lavoro pazzesco. Sì. Direi per concludere tre cose: che dopo questa partita Francia-Scozia, che ormai la Francia dovrebbe vincere, ci sarà un Galles-Inghilterra con il Galles che non era così favorito da tanti tanti anni sull'Inghilterra, Galles che, se si conferma, rimane il favorito numero uno per il Sei Nazioni. E poi altri due risultati delle altre Italie: l'Under 20 a Piacenza ha perso 29-23 dall'Irlanda, e sempre dall'Irlanda l'Italia femminile a Colleferro ha perso 35-17. Perfetto, grazie Giacomo, ci sentiamo domani dal Flaminio, il finale di Francia-Scozia, per ora 19-6, ve lo darò io più tardi. Grazie. Vi ricordiamo che Palla Ovale vi è stato offerto da Peroni. Illumina la tua voglia di rugby. Teniamo a rispettare i tempi, sono le 17:25 come un set della pallavolo, e come ogni sabato possiamo ormai dirlo, c'è il segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi voglio raccontarvi due storie. La prima riguarda il volley maschile e finirà con una domanda. La seconda invece è una bella storia di donne e si chiuderà con l'invidia che ho provato nel vedere ciò che avrei sempre voluto fare e non sono mai riuscito a fare. Partiamo con ordine. La Copra Nord Meccanica Piacenza, allenata da Angelo Lorenzetti, è conosciuta nel mondo del volley per essere una squadra camaleontica. Spesso giocano con Bravo, che è uno schiacciatore, nel ruolo di opposto. E anche lo schiacciatore Zlatanov, quando è in seconda linea, attacca dalla zona riservata agli opposti. Insomma, Lorenzetti cambia spesso la formazione nei giocatori e nei ruoli. Molte volte sono state scelte obbligate a causa degli infortuni. Altre volte sono state strategie che hanno reso più complicata la vita agli avversari. Sta di fatto che la dinamicità dei piacentini è sorprendente. Negli ultimi 20 anni il volley è cambiato moltissimo, soprattutto nella specializzazione dei ruoli. Prima palleggiava a rotazione il giocatore che stava al centro della rete. Poi si sono scelti due palleggiatori che si alternavano in base alla posizione in campo. Infine si è arrivati a giocare con un solo palleggiatore. Il resto della squadra è composta da due schiacciatori che ricevono e attaccano, da due centrali che si occupano principalmente del muro, da un opposto che è quasi esclusivamente impegnato in attacco e dal 1998 da un libero che può solo difendere e ricevere. Per regolamento il libero non può né battere né attaccare. Ora torniamo a Piacenza. Domenica scorsa hanno giocato a Perugia senza Zlatanov, Marshall e Bravo. In pratica gli mancavano tutti gli schiacciatori titolari. Lorenzetti, invece di affidarsi alla panchina utilizzando i cambi naturali, ha rimescolato tutto e a Perugia si sono viste cose inusuali. Bielica, che è un centrale, ha giocato come schiacciatore. Dunnes, che è un opposto, è stato utilizzato nel ruolo di centrale. Il secondo palleggiatore, Boninfante, è entrato al posto di Pampel, un opposto, e ha addirittura attaccato una veloce, cosa altamente inusuale per un palleggiatore. Diciamo che la gestione della partita è stata insolita e certamente non conservativa. È vero che ha vinto Perugia 3-0, ma in quella baraonda di cambi, Piacenza ne è uscita con dignità, con la convinzione di averle tentate proprio tutte. Per evitare equivoci, ci tengo a precisare che i ragazzi di Lorenzetti sono abituati a cambiare molto, e quindi non è stata una scelta incosciente, ma la naturale conseguenza di un progetto condiviso da tutti nel corso degli anni. Ora, la domanda a cui accennavo all'inizio. Dato per scontato che lo sviluppo della tecnica e della tattica in molti sport ha portato alla specializzazione sempre più accentuata dei ruoli, è diventato importantissimo riconoscere in fretta le caratteristiche tecniche e psicologiche dei giocatori. Quindi, quali sono le differenze principali tra un palleggiatore e un opposto nel volley, tra un playmaker e un pivot nel basket o tra il portiere e un goleador nel calcio? Qui chiediamo il vostro aiuto. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica a tempodisport@radio24.it e dateci una mano a comporre un profilo con le caratteristiche dei ruoli diversi negli sport di squadra: calcio, basket, volley, rugby, pallanuoto, pallamano, eccetera. Partendo dal concetto di base che in generale i registi devono essere più altruisti degli attaccanti, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche fondamentali nei vari ruoli. E dopo avervi dato i compiti a casa, passo al senso di invidia che ho provato durante la premiazione della Coppa Italia Femminile 2009. Le ragazze di Pesaro, imbattute da 36 partite, hanno dominato anche la finale vinta 3-0 con Novara. Mentre stavano facendo le foto di rito, con medaglia al collo e coppa in mano, si sono visti due inservienti avvicinarsi con un tavolino. Gli organizzatori avevano pensato di offrire alle vincitrici una grande torta. In un istante è scoppiata una meravigliosa battaglia a torte in faccia. È stato bellissimo vedere le ragazze felici per la vittoria fare ciò che tutti abbiamo sempre sognato di fare, prendersi a tortate in faccia. Ecco, un po' di invidia l'ho provata. Mi sarebbe piaciuto moltissimo essere lì con loro. A proposito, se volete avere un'idea di cosa sia successo, digitate su Google News Volley Coppa Italia Torta e guardate le foto. È uno spettacolo. Ciao a tutti da Andrea Zorzi. Noi ci risentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17:25. La grande Scozia torna a ripetere a Parigi. Vince la Francia, ma con fatica, 22-13. Prima abbiamo visto una magnifica meta degli scozzesi. Siamo al 76esimo di questa prima partita della seconda giornata del Sei Nazioni. Però adesso vorrei andare in Val d'Isère, dove questa mattina ci siamo anche illusi di poter evitare l'ennesima medaglia di legno, che poi è puntualmente arrivata. Prima manche Manuela Moelg volava, prima, e poi nella seconda le cose sono andate molto diversamente fino alla corona, che è finita sulla testolina di Maria Riesch. Ci colleghiamo con Dario Puppo. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bella collezione di medagliacce, di medaglie di legno, eh? Allora, sono tre di legno e due vere, che sono quinti posti. No, sì, due vere e poi anche due quinti posti. Ah sì, certo. Questo vuol dire che il potenziale della squadra era quello che era stato previsto. Io pronosticavo 5 medaglie, 3 al maschile e 2 al femminile. Poi non è che tutte le cose che uno prevede possano andare per il verso giusto, però francamente c'è un po' la sensazione dell'incompiuta di questo gruppo in questo mondiale della Val d'Isère. E la cosa che forse fa un po' più dispiacere è il fatto che le piste erano proprio adatte alle caratteristiche tecniche degli azzurri, e questo è il grande rimpianto, credo, di questo mondiale, al di là di come andrà lo slalom di domani, dove tutti e quattro gli azzurri in stagione sono andati sul podio. Questo è il vero dispiacere, io credo, insomma. Sì, dispiacere si aggiunge al dispiacere della gara di oggi, perché Manuela Moelg è andata molto bene nella prima manche, nella seconda cosa è successo? Ma nella seconda forse il tracciato era meno adatto a lei, che ha bisogno degli angoli con più ritmo, mentre il papà della Zarowska ha disegnato un tracciato più discontinuo, e quello però neanche quello, forse quando ha visto il traguardo qualcosa insomma non è andato per il verso giusto. È proprio come dopo una maratona arrivi a 100 metri, vedi il traguardo e ti fai sfuggire la vittoria. Ed è difficile poi psicologicamente recuperare da una situazione del genere, può davvero avere un contraccolpo psicologico nelle prossime gare. Speriamo che non sia così. Il problema sarà quello di riuscire a recuperare magari mentalmente qualche atleta che certamente farà fatica a digerire certi risultati. I giovani o quelli che sono la prima esperienza in un mondiale non avranno problemi, tipo in Nerofer, io credo che sarà una motivazione ulteriore. Lo stesso Werner Hell, sono convinto che nelle prossime discese di Kitzbühel farà vedere quello che vale. Però davvero un dato soprattutto che si può riscontrare è il fatto che, ne abbiamo parlato tante volte anche nei servizi su Radio 24, i weekend degli sport della neve erano stati fin qui vincenti, certo, fino a prima dei mondiali. Sono due fine settimana che non riusciamo a vincere, al di là di Zoggeler, che insomma non gli si può chiedere di vincere sempre, di vincere il settimo mondiale, lo ha perso per 213 millesimi, ma sono gli altri che devono ancora affermarsi, che hanno avuto delle occasioni e non hanno saputo sfruttare. Dunque vince Maria Resch, seconda Zabrowska, terza Putiainen e a un centesimo Denise Carbon. Sì, Denise è stata, credo, questa è la medaglia che le è sfuggita veramente per pochissimo, però quella a cui lei teneva tanto era quella del gigante, quella delle lacrime, diciamo. Le lacrime oggi sono quelle di Manuela Moelg, e per Denise Carbon comunque credo che si prospetti un interessante futuro con due specialità, perché lei ha avuto paura di affrontare i pali dello slalom per gli infortuni che ha affrontato nelle ultime stagioni. Io invece penso che soprattutto la stagione delle Olimpiadi la vedrà protagonista anche più in slalom. È vero che la concorrenza tornerà a essere più forte quando torneranno la Shield, la stessa Osp, la Costazza, perché no, in casa Italia, però insomma abbiamo da giocarci, io credo, in questa stagione qualche altra cosa di importante, soprattutto con Nadia Fanchini, la coppa di specialità nel Super G. La Carbon non ha avuto il coraggio di scendere con più rischi nella fase di Belvoir, ha avuto troppo rispetto nella giornata di giovedì nel Gigante, nella prima manche, ed è stato un vero peccato. Una cosa analoga capitata al suo cugino Peter Phil nella, sì, discesa della Super Combinata, quando ha preso un distacco di 2,24 da Svindal, senza il quale, insomma, avesse contenuto a un secondo e mezzo era anche lui a medaglia. È un po' strano vedere che, insomma, abbiamo mancato 5 volte la possibilità di medaglia per così poco. Anche in Hannover nel Super G la mancata di pochissimo, anche se lì c'era la consolazione dell'argento di Peter, sì, Phil. Grazie Dario, ci sentiamo domani per il gran finale, lo slalom maschile, Manfred Mörg e Giorgio Rocca, vi aspettiamo domani con una medaglia che non sia di legno, lo speriamo davvero. Grazie Dario Pupa, a domani. Grazie dunque a voi. Adesso andiamo, viriamo rapidamente sul calcio mentre attendiamo la fine di Francia-Scozia, siamo nel tempo di recupero 22-13 per i francesi. C'è anche ovviamente la giornata di Serie B, che pure propone un derby, un derby se ce n'è uno, cioè Pisa-Livorno. Sta vincendo 2-1 il Pisa, i gol tutti nel primo tempo di Greco al decimo, quindi il pareggio al 43esimo di Diamanti, ma dura soltanto 2 minuti perché allo scadere 45esimo del primo tempo segna Viviani. Altri risultati ancora parziali, naturalmente Ascoli 1 Brescia 0, Avellino Albino Leffe 0-0, Empoli 2 Rimini 1 Mantova 2 Cittadella 0. Il Parma sta vincendo 3-0 con il Grosseto, quindi il Piacenza in vantaggio 2-0 sull'Ancona, la Salernitana 3-1 al Modena, Treviso Frosinone 1-1, Sassuolo Triestina 1-1, ieri Bari Vicenza 1-1. Adesso però proverei a tuffarmi nella vigilia del derby di Milano. L'Inter recupera Maicon in extremis, dunque meno grave del previsto l'infortunio di ieri. Maicon convocato, Maicon ci sarà, non ci sarà naturalmente Kakà, non ci sarà anche Shevchenko. Nel Milano ha detto oggi Ancelotti che ha chiarito ogni dubbio, non ha rifiutato la panchina con la regina, un problema muscolare, ha lo stesso problema, non è recuperabile per la partita di domani. Finisce intanto Francia-Scozia con la vittoria francese nel Sei Nazioni. Poi ha parlato anche di Beckham, che peraltro oggi c'è stata una dichiarazione sponda Galaxy sul New York Times. Trattativa finita, Beckham deve tornare indietro. Ovviamente al Milan hanno rallentato, non sembrano essere molto preoccupati di questi ultimatum e di queste chiusure da parte degli americani. Evidentemente hanno in tasca la volontà del giocatore di rimanere stabilmente in maglia rossonera, e anzi Ancelotti oggi ha confermato ancora una volta: in questo momento per noi è un giocatore indispensabile David Beckham. L'entourage del giocatore ha detto ne parliamo lunedì, adesso sta pensando al derby, come giusto che sia peraltro. Un derby per il Milan determinante, e chiaramente Ancelotti non può nascondersi, sentiamolo. Il fattore trasferta, il fattore campo si sente molto relativamente, meno rispetto a tutti gli altri tipi di trasferta. Questo non cambia né l'atteggiamento, no, di certo. Sappiamo che dobbiamo vincere, quindi lo facciamo, dovremo cercare di farlo pur sapendo che sulla carta giochiamo fuori casa. Così Ancelotti, ma sentiamo anche l'allenatore rossonero sulla partita all'andata. Beh, lo ricorderete tutti, lo ricorderete in molti, soprattutto tifosi diretti interessati. Vince il Milan, gol di Ronaldinho. Ronaldinho domani sarà in campo al posto di Kakà, ma Ancelotti pensa a una partita un po' diversa rispetto a quella dell'andata. Credo che sarà una partita diversa, è difficile riproporre la stessa partita. Credo che l'Inter cambierà un po' atteggiamento rispetto alla partita di andata, e quindi dovremo trovare degli accorgimenti diversi per gestire bene questa partita. L'Inter è cambiata perché contro di noi ha giocato con le due ali, penso che domani giocherà in maniera diversa, quindi questo comporta anche un atteggiamento diverso da parte nostra. Sicuramente è una sfida importante, soprattutto per noi, non credo che per l'Inter cambi molto, perché rimarrebbe sempre un vantaggio, per noi cambia parecchio, quindi è una partita che sicuramente è molto più importante per noi, anche se rimane un derby, quindi tra virgolette importante per tutte e due. Adesso saltiamo il naviglio e andiamo direttamente da José Mourinho. Come sta vivendo José Mourinho questo sabato del villaggio in attesa di un derby? Come dice giustamente Ancelotti, per l'Inter in fondo, visti i numeri, non decisivo, però sapete, capirete anche voi, no? Arrivi a Milano con tutta sta fanfara, sei primo in classifica senz'altro, ma perdi due derby. Com'è questa storia? Credo che Mourinho non sia Non sia tranquillissimo in questa vigilia, ma sentiamolo. Per me è stata una settimana normale, perché io non parlo. Io solo parlo con voi. Prima della partita, dopo la partita, durante la settimana non parlo con nessuno, non faccio nessun tipo di intervista, di intervento. Per me è stato assolutamente normale, non ha cambiato assolutamente nulla. Non... Però mi sembra che tranquillità è importante, uno pensare semplicemente in quello che deve fare è importante. I giocatori sono andati in nazionale, ritornare di nazionale subito, entrare in un'atmosfera di tranquillità, mi sembra che è molto meglio, si recupera molto meglio, si concentra di un modo molto, molto positivo. Non è il tradizionale blackout dove tutto è chiuso e nessuno parla, è stato semplicemente una settimana di tranquillità. Io oggi sono qua, io in rappresentazione della mia squadra. Adesso di nuovo Mourinho, anche lui col pensiero rivolto alla sconfitta dell'andata, ma anche lui come Ancelotti che dice: non lasciatevi ingannare, sarà un'altra partita. Sentiamolo. Deve segnare l'opportunità che hai per segnare, perché di solito in un derby la partita è molto equilibrata e non è facile avere 4, 5, 6, 7 palagol. Abbiamo avuto due grandissime palagol in questa partita, non abbiamo segnato, si deve segnare. Il percentuale di efficacia in partite di questo livello deve essere molto alto. E dall'altro lato, una squadra che ha difeso molto bene come noi abbiamo avuto non può sbagliare in una situazione di transizione difensiva, dove noi abbiamo avuto una transizione fantastica, dove siamo arrivati praticamente con 5 o 6 giocatori in area di rigore, e 5 contro 1 Ronaldinho da solo ha segnato. Penso che è una partita che esige grandissima concentrazione difensiva, tutti i dettagli, perché di solito la differenza è una differenza minima. E per questo efficacia in attacco e grandissima concentrazione in fase difensiva. Questo è José Mourinho, io saluto e ringrazio Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Con Andrea Schianchi vorrei tornare a monte il discorso che avevamo fatto in apertura sui ruoli, partendo dal rugby, poi abbiamo sentito anche Andrea Zorzi per la pallavolo. Guardando giocare Bergamasco col numero 9, Andrea, mi è venuto in mente, domenica scorsa a Twickenham, mi è venuto in mente un pomeriggio lontano con Franco Baresi numero 4 da centrocampo nell'Italia di Berzot, che ovviamente non poteva sfilare la maglia a Scirea, non andò benissimo. Nello sport di oggi inventare non si può. No, non andò benissimo effettivamente quella partita, io ricordo di averla vista in televisione, non andò benissimo, mi pare che se non sbaglio fosse contro la Romania, a Firenze, credo che finisse anche 0-0, non andò benissimo, fu una partita abbastanza brutta comunque da parte di tutta l'Italia, peraltro credo che Baresi avesse le caratteristiche per poter fare quel ruolo. È certo che non può bastare una partita per giudicare l'evoluzione di un calciatore, perché se noi consideriamo, parlando ad esempio restando in ambito Milan, possiamo vedere come Pirlo da trequartista sia stato praticamente riportato al vertice basso del rombo. Ma tu sai bene quanto ci ha lavorato Ancelotti. Certo, non può bastare una partita, bisogna insistere, io dico per almeno una stagione se non di più, o Zambrotta trasformato in laterale difensivo da Marcello Lippi, e poi non lo fai in una finale di Champions League, cominci dalle amichevoli del mercoledì, insomma. Sicuramente sì. Al di là di questo, Andrea, oggi sul corsivo tuo sulla Gazzetta dello Sport scrivi di carri del vincitore e su cui tutti sono pronti a saltare, e di dubbi, ad esempio sarà l'ultimo derby di Maldini, probabilmente sì, e personalmente me lo auguro. Perché insomma è passato il tempo di Paolo Maldini, credo sia giusto far scendere tra gli applausi il sipario su una carriera meravigliosa che non deve essere sporcata con un'ulteriore permanenza. E poi magari di Ancelotti, tutti dicono: ma Ancelotti, ultimo derby, scricchioli strani, spifferi strani, Galliani che nella settimana del derby va a criticare il suo allenatore. Oggi Ancelotti ha chiuso le porte, non mi risulta che questo sarà il mio ultimo derby, ha detto: ho un contratto e sarò lì. Tu cosa ne pensi? Io non lo so se sarà l'ultimo derby, credo che non lo sappia neanche Ancelotti, sicuramente non lo sanno né Galliani né Berlusconi. Io quello che so è che Ancelotti ha un contratto fino al 2010, e per andare via, se il Milan lo manda via deve pagargli un anno di ingaggio, se non lo manda via ed è Ancelotti a voler andare via dovrebbe comunque chiedere una liberatoria al Milan e magari il Milan non gliela concederebbe. Quindi io francamente non credo molto alle, diciamo così, alle voci e alle ipotesi fatte in febbraio-marzo, perché è un po' di tempo che sono nel mondo del calcio e mi sento parecchie di queste voci. Quello che però io ho voluto sottolineare con quel pezzo è che francamente suona abbastanza strano che un vicepresidente esperto, oltretutto e abile come Galliani, non dico per motivare la squadra, ma trovi un'occasione simile per criticare l'allenatore proprio nella settimana del derby. Francamente a me è suonato un pochino strano, ma non solo a me, alla maggior parte, devo dire la verità, dei tifosi del Milan, sì. Perché se Ancelotti ha delle colpe, e sicuramente ne ha, perché come tutti quelli che lavorano sbagliano, sbaglia anche lui, però è ovvio che non, secondo me non le vai a far rimarcare in pubblico nella settimana del derby, questo perlomeno certo. È una mia opinione. Poi dopo... No, ma è anche la mia, suona quantomeno un po' strano e quindi sì, abbastanza, varrebbe la pena di capirne i motivi. Nel servizio invece centrale di Sport Week di oggi, il servizio di copertina di Sport Week di oggi, sì. Hai provato a cercare un difetto a David Beckham senza... L'ho trovato, è ufficiale, ho trovato il difetto di David Beckham. Cioè? Anche David Beckham ha i buchi nei calzini. Ah sì? Eh sì, perché qualcosa anche lui andrà storto, voglio dire, si bucheranno anche a lui i calzini, no? Ma è Vittoria che non glieli aggiusta. No, però me. Giustamente un mio amico, a cui dicevo questa battuta, mi ha detto sì, ma la differenza tra noi normali e il buco nei calzini di David Beckham è che sicuramente... diventerebbe una moda il buco nel calzino, ah, certo. Se ce l'avesse David Beckham. Certo. Al di là di questo, oggi Ancelotti di nuovo ha sottolineato pubblicamente alla vigilia del derby: Beckham è un giocatore in questo momento indispensabile per il Milan. Peccato che in America oggi abbiano detto lo rivogliamo, scaduti i termini, non ci date il quattrino e quindi Beckham torna qui. Mi sembrano tutti molto tranquilli. Però. Allora, Ancelotti secondo me ha assolutamente ragione nel dire che Beckham è indispensabile in questo momento al gioco del Milan, perché è l'unico calciatore assieme a Pirlo in grado di ribaltare l'azione difensiva in azione offensiva con un solo tocco, e il Milan ha assolutamente bisogno di rapidità e di velocità in questo momento. Quella dei Los Angeles Galaxy mi sembra francamente faccia la mossa, mi sembra che faccia parte francamente del gioco delle parti, certo. Cioè loro ovviamente pretendono dei soldi e vogliono una certa cifra, il Milan al momento a quella cifra come offerta non c'è arrivato, è chiaro che si sta cercando di tirare la corda da una parte e dall'altra, ma francamente penso che alla fine Beckham rimarrà al Milan. Peserà la volontà del giocatore, che sappiamo tutti qual è. Ma sai, a loro non cioè il concetto è agli americani non conviene tenerlo per poi perderlo il primo di dicembre a certo. Parametro zero, perché questa è una clausola del suo contratto, quindi francamente conviene monetizzare adesso. Naturalmente. Andrea, per chiudere, per il Milan sul derby in generale sarà molto più facile, io credo, paradossalmente, questa partita di quella contro la Regina della settimana scorsa, emotivamente e tatticamente. Sì. Per l'Inter, che ha un vantaggio stracomodo, credo sia la vera prova generale anti-Manchester. Io penso di sì, cioè penso che sia sicuramente più facile per il Milan, nel senso che il Milan ha una sola cosa che deve fare, deve cercare di vincere e basta, perché il pareggio non va bene, perché la sconfitta tanto meno, perché verrebbe nel baratro più baratro. Dal punto di vista psicologico l'Inter deve stare effettivamente un po' attenta, perché secondo me questo Milan preparato da Ancelotti potrebbe nascondere qualche insidia. È anche vero però che a mio avviso l'Inter ha una struttura di squadra superiore rispetto al Milan, anche se è vero che in una partita secca alle volte la struttura di squadra non fa sempre la differenza, però l'Inter secondo me è superiore sostanzialmente. Credo che davvero possa essere una prova anti-Manchester, anche se credo che il Manchester sia superiore anche al Milan e credo che sia veramente difficile per l'Inter superare quel turno. sì, e soprattutto i miei cari Red Devils. Grazie Andrea, buona partita, buon derby. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Schianchi. È chiaro che quello è il trampolino vero, è il nodo della stagione nerazzurra, quel doppio confronto con il Manchester United. Faccio giusto in tempo a darvi finali di Serie B. Ascoli batte Brescia 1-0, Avellino Albino Leffe 0-0, Empoli batte Rimini 2-1. Con lo stesso risultato, 2-1, il Mantova ha battuto il Cittadella, mentre di goleada il Parma sul Grosseto 4-0. Piacenza batte ancora 2-0. Vince il Pisa al derby, Pisa batte Livorno 2-1, quindi il risultato del primo tempo che diventa finale, Salernitana batte Modena 3-2, il Frosinone vince 2-1 a Treviso, Sassuolo Triestina 1-1, Livorno e Bari 45 punti, Sassuolo 42, Parma 41, Brescia Empoli 40, Grosseto 38, Vicenza Triestina 36, seguono le altre in coda Modena 17, Avellino 21, Treviso 22, Ascoli 26, Piacenza Cittadella 28, Salernitana e Frosinone 29 punti. Per noi invece sono le 17.57, ora di chiudere, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia. Con A Tempo di Sport ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 17, calcio, rugby, derby di Milano, insomma domani abbiamo tante cose da dirci, a domani.